Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Simone Moro, 49 anni, bergamasco alpinista, l'unico uomo della storia a essere salito d'inverno su 48.000 e ha scalato la cima dell'Everest per 4 volte nel 97. È l'unico superstite di una spedizione sulla Annapurna. Di quell'esperienza ha detto: sono sopravvissuto a quella tragedia, non permetterò mai che una valanga mi privi della solare esperienza di vita che sperimento ogni giorno tra le montagne. Laureato con 110 in scienze motorie, allenatore della nazionale italiana di arrampicata sportiva, pilota di elicotteri, esperto di soccorso in alta quota. Nel 2001 riceve la medaglia al valore civile. Lo scorso 26 febbraio alle 15.37 locali ha segnato per sempre la storia dell'alpinismo mondiale. È stato il primo uomo a conquistare la vetta del Nanga Parbat d'inverno. Ecco Simone, se chiudi gli occhi e torni al 26 febbraio alle 15.37, cosa senti? Sento una gran pace, un appagamento totale e la gratificazione che era valso la pena sognare. Era valso la pena. 8.125 metri l'altezza del Nanga. Una montagna che la gente chiama la montagna assassino, la mangia uomini. Ma quanti ne ha mangiati di uomini? Alcune decine, soprattutto negli anni 30, quando si è tentato di salirla per la prima volta. Però è continuato purtroppo il tasso di mortalità così alto perché è parecchio pericolosa ed è dannatamente grande. Senti, oggi che sei riuscita a scalarla, tu che nome le daresti? La grande donna, che potrebbe essere una mamma o potrebbe essere la donna della tua vita, perché va amata, va corteggiata, perché lei non è stata lì ad ammazzare qualcuno. E qualcuno bisogna che non l'ha prenderla capito. Dalla parte giusta. Sì, la mamma ti dà un ceffone e ti dà un bacio. Uh-huh. Ok, devi capire come relazionarti. Nel libro Nanga Parbat scrivi: io di quella montagna mi ero proprio innamorato, nonostante l'avessi corteggiata tanto e fossi stato più volte respinto, il desiderio di conquistarla era sempre più forte. Ma qual è il vero sentimento che ti spinge lassù? È veramente un innamoramento, non è un'infatuazione. Non è che dice che bella questa. No. Ti prende il cuore. Ed è bello anche quando la pensi, cioè, il Nanga Parbat mi ha fatto sognare anche quando non ero sotto a questa montagna ed è esattamente paragonabile a un sentimento d'amore. Senti, ma quanto sono state le spedizioni che hanno fallito prima di te? Più di 30, tra cui anche il sottoscritto. Tu quante volte? Io ci sono andato 3 volte fallendo, se usiamo questo termine, sì. E la quarta volta sono andato in cima, ho dovuto imparare a conoscerla. Ma perché le altre volte era andato male? Cosa non avevi capito di lei? A parte magari condizioni meteorologiche, sì, più difficili. Cioè, vabbè, la sfortuna. Veramente, come avere a che fare con una persona? Tante volte noi ci fermiamo a un'opinione e poi ci trinceiamo dietro l'opinione che ci siamo fatti di ciò che non conosciamo. Dovevo conoscerla di più. Dovevi capire più di lei. Ecco, tu hai detto nell'alpinismo il muscolo più importante è il cuore. Ma quando sei lassù, una non decisione è la peggior cosa. Insomma, più cuore o più cervello? Tutti e due, perché il cuore, quando ti innamori, diventi anche paziente, ok? Sai aspettare magari l'unico giorno che vedi la tua innamorata. E il cervello è che devi fare le cose però con razio, perché se fai solo le cose per impulso, puoi perdere anche l'amore. Senti, ma a proposito di cuore e cervello, con te a scalare c'erano Alex, Ali, Tamara, Dani e la tua compagna ricordata, che a 70 metri dalla cima ha deciso di fermarsi. Cos'è successo? Ha scelto lei, ha capito che ormai andava a 2 passi e poi si doveva fermare un minuto. 2 passi che sono lunghi 30 centimetri. Troppo poco. E ha capito che non sarebbe arrivata in cima troppo tardi. Ma quindi è stata una decisione più di cuore o più di cervello la sua? Più di cervello. E il cuore è stato coinvolto perché Tamara ha anche una grande fede. E in quel momento ha sentito veramente una voce che gli ha detto: Tamara, o adesso o non torni più a casa. E l'ha ascoltata. Ma in qualche modo è anche grazie alla sua rinuncia che voi siete riusciti ad andare in cima? O l'avreste lasciata lì? No, noi siamo andati in cima perché lei tra l'altro si arrabbia quando si dice che grazie a lei siamo andati in cima. Io però posso dire che grazie alla sua rinuncia per me è stata più facile la via del ritorno, perché lei era nella tendina, ormai era buio, con una lucina accesa. Per me è stato un faro. Il faro che ti guidava quindi nel ritorno. Quindi ci ha permesso di portare probabilmente a casa il successo senza danni, senza bivacchi. Tu hai detto quando sei lassù la cosa peggiore è la non decisione, ma in squadra chi decide? Il più carismatico, perché c'è sulla carta il leader, ma di solito il più carismatico può essere anche il più esperto. In questo caso il più esperto ero anche il più anziano, però tutto è stato condiviso. Il carisma forse è la parola giusta. È la parola giusta. Senti, ma su Tamara quindi ha deciso lei, non tu. In completa autonomia. Senti, ma è stata quindi più una rinuncia che altro? una consapevolezza in più. Beh, lei ha fatto un risultato storico. È come quasi essere a mettere il piede sulla Luna e decidi di non metterlo perché potrebbe essere fatale. Quindi questa è una rinuncia storica e tutti gli alpinisti della Terra sanno che Tamara muscolarmente in cima al Nanga Parbat c'è stata. Andava, certo. Dobbiamo anche dire una cosa che non è mai stata detta. Era nel primo giorno del suo ciclo mestruale. Una donna senza ossigeno a meno 54 nel primo giorno di ciclo mestruale. Se io avessi avuto le sue stesse condizioni probabilmente mi sarei fermato. Ti fermavi a campo base. Senti, a un certo punto poi hai dovuto anche decidere di cambiare strada, di non proseguire sulla via di Messner ma andare da un'altra parte. Come fai a sapere che quella è la decisione giusta? Era un'evidenza. Dopo un mese e mezzo non ero andato più di 6.000 metri. Capivo che dovevo usare la testa e non solo il cuore. Certo. Se gli altri compagni ti hanno seguito senza obiezioni? Beh, il mio compagno era Tamara, quindi lei mi ha seguito senza obiezioni perché era l'evidenza. Gli altri sono stati sempre perseveranti nell'invitarmi ad andare con loro. Ma se non fosse andata così, cosa sarebbe successo? La spedizione si può dividere? No, sarei rimasto insieme a Tamara, ma avrei lasciato priorità a questi altri due alpinisti che avevano attrezzato la via sulla quale ci hanno invitato. Sento, nel libro tu scrivi che la differenza tra una spedizione invernale e un'estiva non è solo il freddo, ma è muoversi in un ambiente che si trasforma e che non accetta errori. Insomma, d'inverno, se sbagli, sei morto. Eh sì, è veramente un'altra attività l'alpinismo invernale. Ecco, dice anche, eravamo a 7.800 metri, nessuno parlava, concentrati sul mettere un passo dopo l'altro, 7 per l'esattezza, fermarci a guardare in alto nella speranza che quei 7 passi avessero fatto il miracolo di avvicinare la cima. Non hai mai avuto un momento in cui hai detto non ce la faccio? No, non mi è mai capitato nella vita. Nella vita? Sì, perché per me la vetta è un punto di passaggio, non è il vero obiettivo. E quindi potrei dire non ce la faccio arrivare in cima, ma se dici non ce la faccio vuol dire che prendi anche in esame il fatto che non torni più a casa. E io mi sono sempre, al momento, fermato in tempo. Per dire torno a casa. Per dire torno a casa. Ecco, senti, dici che l'invernale comincia il 21 dicembre. Perché il 21 dicembre? È la regola della, è una regola astronomica. Il 21 dicembre, 20 marzo, i solstizi. Ma voi siete arrivati al campo base quando? Noi siamo arrivati al campo base, se non ricordo male, il 1 gennaio. E siete partiti dopo quanto? Siamo partiti già dopo 2 giorni. Anzi, sì, dopo 2 giorni abbiamo giusto fissato la tenda, poi via. Ma che sensazione c'è salire senza ossigeno, oltre alla fatica? Il cervello più lento, più annebbiato o no? Penso si possa paragonare come fare le immersioni con le bombole d'ossigeno o in apnea. Si fa sempre un'immersione, ma le difficoltà sono mostruosamente diverse. Tu hai detto, anche se sei in gruppo, fondamentalmente sei solo, perché la capacità fisica e muscolare di dare una mano a qualcun altro nel caso ti chiedesse aiuto è minima, cioè è nulla. In realtà, mos tua vita mea, è così? È difficilissimo riuscire a dare una mano a qualcuno e il fatto che mi abbiano dato la medaglia d'oro al valor civile è perché una volta è capitato che a 8.000 metri sono riuscito a caricarmi in spalla uno senza ossigeno e per tutta una notte l'ho trascinato alla mia tenda ed è sopravvissuto. Mi ha fatto piacere che il Presidente della Repubblica si sia accorto di questo gesto. Di questo italiano un po' folle. Ma la decisione di aiutare o non aiutare un compagno deve essere presa velocemente. Sì. Te, ti è mai capitato? Qui hai raccontato una volta in cui sì e una volta in cui no? No. A 8.000 metri si è la stessa persona che a livello del mare. Il senso civico non cambia. Mi è capitato di vedere persone che hanno detto di no. E quindi probabilmente queste sono le stesse che a livello del mare direbbero di no dal soccorrere qualcuno perché magari sono in ritardo. Ma nel 97, insieme ad altri due compagni, sei salito sulla Annapurna e sei stato l'unico a tornare. I tuoi compagni sono morti. Cos'è successo? Beh, l'ho descritto in un libro, il mio primo libro, perché è veramente una storia al limite del credibile. In 2 secondi cade una valanga, ci travolge, io sopravvivo. Pura fortuna. E riesco poi a scalare senza ossigeno, senza poter usare le mani, tutto ferito, sanguinante, 1500 metri di parete e poi trascinarmi per alcuni giorni sul ghiacciaio e dire dov'ero, organizzarmi un soccorso. È stato veramente, potrebbe essere la trama di un film. Ma lì non hai mai pensato mai più un 8.000? No, perché è come se uno fa un incidente grave anche in macchina dove perde qualcuno, ma non era in giro a fare il pazzo. È capitato. E quindi ovviamente ho resettato magari un po' alcune scelte mie alpinistiche, magari cose più tecniche e meno pericolose. Perché poi le responsabilità sono cambiate. Ma quanto conta la fortuna? Tantissimo, tantissimo, anche se la fortuna può essere concimata, può essere avvelenata, cioè bisogna diventare anche protagonisti della propria di fortuna, cioè, perché se uno aspetta solo la dea bendata, homo faber fortuna sua, sì, eh. Sì, bisogna aiutarla tanto la fortuna, quindi se rinunci come ha fatto Tamara a 70 metri ha avuto fortuna che ma c'era... si è salvata la vita anche. Sì. Ecco. Ma tu hai detto nella vita ho perso 50 amici, tutti fortissimi alpinisti ai quali non era concesso perdere, cioè cosa vuol dire? E alcune volte si sono accorti che dovevano rinunciare ma era troppo tardi. Tante volte il pericolo non va visto, va fiutato, come fanno gli animali. Esatto. Molti muovono sentirlo le narici, prima. Le orecchie scappano, altri vogliono vederlo il leone, ma è troppo tardi e bisogna sviluppare questa caratteristica. E questo in montagna è fondamentale. E questo è fondamentale. Ecco. Ma la prudenza, la preparazione, la meticolosità, quindi non sono mai troppe, cioè, ci vuole, in più ci vuole questo istinto. Sì, ci vuole questo istinto, in più bisogna essere veramente meticolosi, non lasciare nulla al caso e il punto debole non devi essere tu, nel senso anche muscolare, bisogna veramente spaccarsi la schiena di preparazione. Esatto, e infatti anche tra i più bravi e preparati però c'è chi per la fama rischia troppo. Sì. Pensando, in genere si paga. Si paga perché quando uno pensa che il mondo è lì a guardare te, hai veramente sbagliato. Il mondo di te se ne frega. Se ne frega. E quindi devi stare attento che tu devi essere l'attore, protagonista, regista e produttore del tuo film di vita. E anche l'unico spettatore. Bravo. E quindi non devi pensare che il mondo sia lì a aspettare te. Ma c'è più solidarietà o più competizione nel mondo degli alpinisti? Più competizione. Più competizione. Si parla fortissima. Di un mondo beato dove tutti si vogliono bene ed è vero fino a un certo livello. Poi, lo dico con rammarico, scopro che... Non è vero. No. E infatti, a proposito della vostra scalata, dal mondo dell'alpinismo hanno commentato che si sarebbe potuto fare meglio, diversamente. Tu hai risposto appunto così, più o meno. Possibile che non si riesca a dire bravi e basta? È vero. Potevamo fare meglio, potevamo non mettere le corde fisse, potevamo essere più veloci. Quindi si può fare un Nanga Parbat migliore di quello che abbiamo fatto. Come andare sulla Luna oggi si può andare meglio rispetto a una volta. Ma mi lasci andare la prima volta? Tanto come la prima voglio capire come. Senti, nel 70 Messner col fratello Gunther scalarono il Nanga dalla parete Rupa, la più alta del mondo, ma a valle tornò solo Reynolds. Per 30 anni lui è stato accusato di aver abbandonato il fratello, poi si sono ritrovati i resti del fratello e si è capito che la versione che dava lui era quella vera. Ma perché nessuno gli ha mai creduto? Era troppo avanti Reynolds, era troppo avanti, cioè? Faceva un alpinismo, quella scalata che ha fatto lui con il fratello non è più stata ripetuta. Io oggi non so se sarà in grado di fare quella scalata. E quindi immaginatevi uno che sbaraglia tutti, sei lì che magari fai la maratona in 3 ore, arriva uno che la fa in 1 ora e mezza. Non ci credi di default. Quindi Reno era troppo avanti in ma roccia. Ma perché era troppo avanti? Mi fai una domanda. Forse aveva una fame pazzesca. Fame ovviamente non alimentare. Sì. Ha avuto una vita durissima. Classico altoatesino, aveva voglia di fare... Cioè una bestia. Sì. Però non era un caterpillar, aveva un software pazzesco, tanto è vero che poi lo accusarono come magari l'umilissimo Simone Moro, che sapeva vendersi, parlava, faceva i libri, e non vedevano queste come virtù. Non era dei limiti. Ma come tipo di scalatore cosa aveva di diverso? È stato un rocciatore mostruoso. Poi in questa spedizione che hai raccontato adesso ha perso tutte le 10 dita dei piedi. Lui è diventato Reynolds Messner senza le dita dei piedi. Pazzesco. Quindi tutte le scalate che ha fatto, un uomo senza le dita dei piedi. E le dita dei piedi quando si è attaccato sulla montagna capperi se servono. Quindi immaginatevi quanto forte era. Senti, e Bonatti come lo definiresti? Un mito. Era un mito. Un mito. Perché era un mito? Beh, innanzitutto era di Bergamo come me, quindi è nato quindi era già un mito. No, nella porzione sfigata delle Alpi, non sei a Cortina e non sei a Monte Bianco, quindi devi fare muratore a Bergamo, dice, no? Questo qui poi emigra a Mantova, quindi le montagnette non le vede neanche, ancora più basso. E fa vedere cos'è. Era un grande sognatore, uno con la schiena dritta. Senti, lui rifiutava i chiodi a espansione, c'è qualcosa che anche tu preferisci non usare oppure la tecnologia va bene tutta? Sì, io preferisco non usare ossigeno e la chimica, e proprio dicendo questo. Ma la chimica cosa intendi? La chimica, le pastiglie, il Diamox, adesso si parla di doping e così via. Io ho usato ossigeno sull'Everest. Ho salito 4 volte l'Everest, ma sono 4 scalate in cui non ero solo io. E sono quattro scalate di cui Simone Moro non va orgoglioso. Ecco perché voglio tornare all'Everest completamente senza. Non ero esperto, forse non ero preparato, ero troppo debole mentalmente in quei momenti. Quindi io vado orgoglioso che le mie quattro prime invernali le ho fatte senza ossigeno. E produrre calore umano del corpo d'inverno senza l'ossigeno è micidiale, quindi è difficile, ho capito che l'Everest senza ossigeno lo posso fare tranquillamente. Tranquillamente. Senti, nel tuo libro scrivi che sulla via di ritorno dal Nanga ti si è rotto una talloniera e ti sei messo a ridere. Perché ridere? Perché il buon umore aiuta. Uno che si impreca col mondo di solito, come dicevo prima, attira altre sfighe. Quindi se sei anche incazzato e bestemmi, magari si rompe anche l'altra. Ho riso perché dico, bravo, adesso Simone, c'è il problemino. Prova a aggiustare la talloniera, se no non scendi. E l'ho aggiustata. Aggiustata. Senti, ma l'alpinismo è uno sport? No. Cos'è? Non lo è perché non è un'espressione muscolare, è vero, ma ce ne sono tante altre che palesemente non sono sport. Sai, non c'è una federazione, non c'è una diretta, non c'è l'arbitro, prima partita, la federazione, non c'è nulla. C'è il rigore. È una scelta di vita, tanti dicono è una filosofia, non scomodo questa parola, no. È una scelta di vita che rende felice. Ma tu da quando sei alpinista professionista? Penso di poter dire ormai 20 anni. Prima cosa facevi? Guarda, mi manca una falange di un dito perché sono andato anche in miniera a lavorare. Ho fatto di tutto, ho fatto i serali, non perché ero duro di comprendonio, ma perché lavoravo, avevo i soldini per finanziarmi le mie spedizioni e studiavo la sera. Senti, ma come le finanze e spedizioni? Oggi non mi mancano gli sponsor, sono talmente stupido che sono residente in Italia, pago le tasse in Italia. E quindi, insomma, ma è tutto per esempio una spedizione come il Nanga quanto costa? Alla fine è costata tanto. Tipo? 80.000 euro se non ricordo male. Senti, tutti i tuoi costi diretti, oppure poi te li hanno trovati degli sponsor? No, alla fine ho dovuto metterci del mio. Del tuo. Senti, sei riuscito però a comprarti due elicotteri a San Diego, hai fondato una scuola di piloti. Ma perché in America non qui, visto che paghi qui le tasse? E pensa che la scuola che è in America è di proprietà della mia ditta italiana, quindi sono talmente doppiamente scemo che perché voglio fare le cose alla luce. Senti, del sole. Senti, ma tua moglie non ti dice, guarda, no, non faccio mancare niente alla famiglia. Uno dice, cacchio, si è comprato due elicotteri, mi mancano le ultime quattro cambiali da 75.000 euro l'una, ok? Quindi io so che ad aprile adesso me ne scade una. Così ho comprato le cose, perché non sei ricco, certo, le banche ovviamente ti ridono in faccia. E da quando sei pilota di elicotteri? Dal 2009. Ma un elisoccorso in Nepal non è solo una cosa naturalmente per scalatori miliardari? No, le assicurazioni coprono, i soccorsi ti danno un plafond, sono soccorsi che normalmente costano dai 5-10 mila, massimo 15 mila dollari, quindi entrano in un plafond. Quelli che però avvengono sulla montagna, quindi fuori dallo standard, e lì invece li pagano cari. E quanti ne hai salvati? Parecchi, diciamo che non sono solo io, c'è anche altre squadre, ci sono anche piloti molto più bravi di me, ok? Dai quali io voglio imparare, perché io sono anche un ambizioso, io voglio diventare anche un bravo pilota. Non lo sono ancora, ma sono un bravo studente. Bravo, senti, ma queste scalate sull'Everest oramai sono commercializzate, cioè ma è una cosa che va bene o no? Guarda, io sono un tollerante, infatti tutti quando mi fanno questa domanda pensano che io parta giù con la mannaia. Allora, quello è pane per il Nepal, che è un paese del terzo mondo, non ci fossero questi baluba, come si dice... Ci sarebbero tanti denari meno per un paese che è veramente bene così. Quindi, no, sai cos'è? È un problema che esiste su una montagna sola, fondamentalmente l'Everest, per due mesi l'anno. E quindi sta dando da mangiare un paese questo indotto. Si potrebbe regolamentare, quello è l'obiettivo. Ma dirgli state a casa vostra è come dire a uno che ha fame, dammi a me il tuo panino. Quando tu magari hai la pancia piena. Senti, ma tu hai detto la salita è una sofferenza in cui si agogna la cima. Poi la cima è un rincoglionimento con l'ansia di doverti affrettare a scendere perché c'è paura di non farci. Insomma, il presente dell'alpinismo quando è? Allora, sai che il momento più bello è quando ti innamori di un progetto, quando ti viene lì veramente sei in un'esplosione d'amore. Poi mentre stai facendo la realizzazione, insomma. È chiaro, è una fatica fisica, però non ho mai visto nessuno che fa jogging e viene a casa, ho detto la più brutta ora del mondo. Okay, c'è un appagamento, chiaro, mentre soffri dire che godi, come quando mangi una buona lasagna, probabilmente dire una bestemmia. Però il presente, insomma, diciamo che la sofferenza io non la interpreto come una fustigazione, anche se il più bel presente è quando mi innamoro di un sogno poi vado a realizzare. Senti, ma quanto è diverso salire senza ossigeno? Molto. Tanto, tantissimo. Tanto, tanto. Cambia tutto? Ma cambiano anche le montagne. Un conto è fare un 8.020 e un conto fare un 8.005 o un 8.006. Cambia molto. Sì, perché 100 metri ci impieghi un'ora e mezza ogni 100 metri. E quindi vai... L'ho detto, arrivi anche a fare tre passi, un minuto di pausa. Senti, ma per questa tua ultima spedizione sul Nanga avete deciso di non comunicare. Sì. Perché? Perché c'erano altre spedizioni. Io poi tra l'altro sono conosciuto come un comunicatore. E volevo anche far vedere a me stesso primo e agli altri che la comunicazione è un mezzo, non è il fine. Non è che faccio alpinismo così divento famoso. Avrei altri mestieri dove non avrei le cambiali probabilmente. Tu hai detto la differenza se avere la tecnologia o non averla durante una spedizione è solo una, è che con la tecnologia se muori, muori in diretta. Quindi in realtà non serve a salvare la vita. Sopra la montagna poco nulla. Tamara avesse chiamato col telefono satellitare a 70 metri, aiutatemi, avremmo forse potuto aiutarla noi, ma non è quasi mai capitato. E quando è capitato mi hanno dato la medaglia d'oro al valor civile. Non sono stato l'unico, certo. Salvataggi storici nell'alpinismo li hanno fatti anche prima di me, naturale. Però non sono tutti come Bonatti che resistono a 8000 metri in un bivacco con una giacca di velluto al K2. Ecco, di Bonatti ce n'è stato uno solo. Senti, ma a cosa serve allora celebrare le gesta, la tecnologia? Sì, Vanesio è anche l'alpinista, e l'alpinismo. Solo che quando lo si ovatta di un mondo fuori, noi siamo i beati, voi siete i dannati, si dice un'altra bestemmia, perché ho detto prima che il senso civico di alcuni alpinisti non è stato tanto virtuoso. Senti, tu hai due figli, ecco, per loro, parlare con loro, la tecnologia però ti serve. Sì, molto, molto, molto. E non hai mai pensato di smettere di scalare per loro? Non me l'hanno mai chiesto, e quando a mia figlia gli hanno chiesto all'asilo, fai un disegno del tuo papà, ha scritto, mio papà scala le montagne perché è felice e mi rende felice. Significa che riesco a trasformare i momenti in cui siamo assieme in momenti totali. Mi piacerebbe regalare questo ai miei figli, la capacità di sognare. Oggi un bel regalone. Accidenti. Quindi l'appoggio della tua famiglia è fondamentale in questa vicenda, della tua vita. Io ho avuto il più bel regalo, perché i miei genitori, persone semplici, non mi hanno mai fatto sentire ridicolo quando gli ho detto da grande voglio fare l'alpinista. Ho provato a fare un paragone. Immagina che tuo figlio ti dica io da grande voglio fare il clown. Sì. Tu andresti orgoglioso in giro a dire mio figlio vuol fare il clown. Probabilmente gli diremmo metti la testa a posto. Ecco, io ho avuto dei genitori 40 anni fa che mi hanno detto solo occhio che è difficile. Quindi però prepara la cassetta degli attrezzi nel caso non ce la fai a farla. E ho vinto la scommessa grazie a questa cassetta. Quindi io devo sempre ringraziare il papà e la mamma e i due fratelli che non hanno mai detto abbiamo un fratello pazzo e ne dobbiamo pagare il prezzo magari di avere un fratello così. Senti, prima di partire per il Nanga ha detto torneremo con o senza la vetta, ma con una storia da raccontare. Mi sembra proprio che sia vero. Sì, veramente. E io tutte le volte che non sono arrivato in cima, nessuno mi ha mai visto tornare a casa triste. Ho avuto delle storie da raccontare. Ho imparato un sacco di cose. Perché per essere un grande vincente, devi essere stato anche un grande perdente. Assolutamente. E se vinci sempre, la volta che perdi, Hai perso la bussola. Ma se non e sai se perdi, perdere tra l'altro tardi, tremendo. Quindi magari il mondo si sta accorgendo che c'è qualcun altro. Ancora peggio. Sì. Senti, un'ultimissima cosa, ma lassù agli 8000, Dio lo senti più vicino o più lontano, oppure non lo senti proprio? No, lo sento tanto. Vedi la mano del grande architetto. Sì. Chiamiamolo come avete voglia. Quando uno mi chiede cosa hai visto in cima al Nanga Parbat, io rispondo: ho visto la linea dell'orizzonte curva. Ho visto la terra rotonda. E uno mi può dire: ben pensata. Vabbè, io c'ho il mappamondo, lo sapevo. Bene, quando la vedi, capisci la tua allocazione. Grazie. Grazie a voi. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS.